quando scrivo una canzone comincio a volare. Vorrei tanto rimanere, invece sono costretto ad andare. E con chi non si sa, forse qualcuno che non è più qui. Quando scrivo una canzone sento che una parte di me se ne andrà. È come stessi poco a poco morendo in quella voce che la canterà. Ricordati di me, del mio sorriso, perché per quanto possa durare non durerà all'infinito. Quando scrivo una canzone comincio a sognare. Sarei felice che anche tu lo facessi con me. Sono proprio io che canto di te, che canto di noi, che canto la luna, che canto le stelle, che canto del mondo. E se tu lo vuoi canteremo di noi, perché proprio noi in questo momento siamo gli artefici di una magia. E quando me ne accorgo con grande sgomento è la cosa più importante che ci sia. No, non dormirò, anche stanotte sognerò. Sì, è presto per me, non prendo sonno quando penso a te. E tu sai che cosa vuol dire rinascere un'altra volta? È come sentire dentro la paura di morire. È proprio lei che ti spinge a vivere un po' di più. Quel po' di più che corre con me e si chiama anima. Sarei felice che tu sapessi che fa parte di te. È un vento tiepido che ti porta tra le nuvole. È una canzone, la chiamo così io. Tu chiamalo tempo, spazio, follia, desiderio, amore. Per tutti noi è Dio.